Abbracciarti la gioia e tal mercede soffrirmi fa la vita. Oh, pia mendace, ov'è, ov'è il rigore, l'austera virtude, ov'è, che rampognarti fea l'amor divino. A sempre, o fatal donna, separati ne avesse quella tremenda perdita degli avi, la vendetta, il furor, e tanto sventurato or non sarei, né vinto e lacerato dal rimorso infernal. D'un mio congiunto la sposa mando, e che risolvi, o Dio, fiesi vederla. Se ripulse, ardisci oppormi ancor, paventa! Un detto mio ti perde, ove trascorro, vorrei la fera d'olia oppresso, e tanto la mia ancor più di me stesso. Non può dirti la parola. mi sfugge non ora Sommesso di recarlo a tempi.

miei congiunti, violar la pace da noi giurata, quando a pia mi strinse sacro legato. Tortella morte il ferro gli sta sul capo, e cemo, almen la sventurata pia, che l'ama cotanto, il fine acerbo non udrà del fratello. Alcun s'avanza, nello chino, tu qui, l'inagia e l'attacatore, sempre agitato, e beh, palesarti orribile mistero, a trafiggerti il petto, io venni. Ogni tuo detto mi fa tremare. Non hai ben donde, via. Quello mi proferisti, e qual mi turba. No, spirito d'averno, lodesta in me. Soccorri, soccorri al tuo fratello, dimmi che fida, di che fida è la consorte. Scombra, che scombra, il mio spavento estremo. O silenzio funesto, io gelo, io fremo. E m'infero e meno orrendo il silenzio della tomba. Il mio dir fia più tremendo. Ciel di morte in cor mi piomba. Infelice. O mai fatenda. Sei tradito. Ah, il verdi cesti. Ah, purtroppo. Che fuego. Ed ella. Ella. O chino, a che t'arresti? Ella è in vita. Amor mio, l'onore. L'altra amatia rico. Il tuo fulmine grandio, la spergiura non colpì. Mie gelose furie suono. sentisti con tanto eccesso, non ho quel corno l'ha macchiato, no quel corno l'ha macchiato. Testimo sarai tu stesso del vano terrecato, testimo sarai tu stesso. Come il ciel di luce privo chiami al sonno e al riposo, alla via verrà furtivo chi t'offende. Andiamo, andiamo. Testimo sarai tu stesso. Sono e tardi il cuor sua fretta, se ti parlo la muovi ancora, io non lo so, vendetta, vendetta. Oh mio, son cieco di cuor. speranza e timor, fra vita e morte, mi balza il cuore. Ha vinto forse l'estremo fato. Thank you. son palpito, ignoto mestio, Grazie. Thank you. Yeah. Tremenda morte, il vita spettacolo. Rodrigo! Rivencio! O qui! Pur giungo al tuo cospetto, ben 10 lunghi giorni palpitarmi fu dopo, e vincer guerra di rinascenti ostacoli, a portator di trista nuova. Oddio, che avvenne? Quel tuo fuggir nello fremente di cieco sdegno, a trucidar la sposa, il ferro al fuoco. Perverso! A lui sottratta fu l'innocente, ma del crudo in seno l'ira non tacque. Gemebonda, oppressa, vuota di sensi, quella notte stessa nella Maremma trascinar la fece, ove fra i morti stagni aura letal si beve, orché infuocati raggi saette le dì. Nel suo funebre castello appia dell'invano un cenno, prigion dischiuse acerba. Che? Forse a morir la serva. Mille volte pria morir. Oh, Just

se rivocato il cenno mio non è, sin che biancheggi l'alba del dì novello. Mora alla pia, mora, lo impongo. Bello. Thank you. tra il similar de venti l'udito mi colpì. Io non traveggo e non sconfitte quelle mi covranno fuori di siena le squadre e strascinate pel campo dentro la polve ti manfredi le insegne. Al mio castello io mossi e l'orme nostre seguì ad appresso un folto stuol repente di Guelfi. I giorni miei veggio alla fuga. Arra, arra, ti spirti a queda. Oh, Pietoso ancora ti parla. Oh! esci. Thank you.